Contro la noia, contro la paura, ascoltiamo Due di Denari con i due antivirus, Meassa e Larosciani. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ave Maria, cantata da Albano, ha trasformato la rotonda del lungomare di Taranto in una sorta di cattedrale a cielo aperto. Si è tenuto a Taranto ieri sera il primo concerto live post-Covid del territorio e oltre ad Albano sul palco anche Renzo Rubino, il tenore Gianluca Terranova e ben 70 professori dell'orchestra della Magna Grecia. Oggi ripartiamo grazie al sacrificio e al lavoro di donne e uomini che durante l'emergenza epidemiologica non si sono mai fermati. Si è espresso così il primo cittadino di Taranto, Rinaldo Melucci. Dedichiamo a queste donne e a questi uomini l'armonia e la leggerezza di una serata che ci riporta alla socialità, alla normalità. Il concerto, infatti, è voluto essere un ringraziamento ai 200 ospiti selezionati fra medici, infermieri, forze dell'ordine e protagonisti della lotta al Covid in Puglia. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani. Con questa Ave Maria, appunto, interpretata da Albano, abbiamo voluto dare inizio alla nostra trasmissione di oggi in una maniera piuttosto originale. Lo sapete che il mercoledì è il mercoledì del lavoro, ma in realtà è proprio questa iniziativa che si è tenuta a Taranto che ci serve esattamente per illustrarvi la tematica che approfondiremo questa mattina. Parleremo dei lavoratori dello spettacolo, perché lo sapete che da lunedì in Italia hanno potuto riaprire cinema, teatri, congressi, eventi fieristici, ma con alcune limitazioni. Avrebbero potuto farlo anche le discoteche e le sale da ballo, ma in questo caso il governo ha deciso di posticipare la riapertura al 14 luglio. Noi lo sappiamo, c'è grande disagio anche in questo mondo. Alcuni operatori delle sale da ballo ci hanno mandato tanti messaggi chiedendoci di segnalare la loro situazione di grande preoccupazione per l'interruzione totale della loro attività. E quindi il governo, appunto, ha dato la possibilità alle singole regioni di anticipare le date nel caso in cui l'andamento epidemiologico lo consenta. Per tutte le attività che riaprono sono valide le misure che hanno già preso ristoranti ed altre attività, come la misurazione della temperatura ai clienti, il posizionamento, se serve, di barriere di plexiglass tra i posti a sedere e a protezione degli operatori, la registrazione di tutte le presenze, la sanificazione periodica di tutti gli ambienti. Allora, questa è la situazione, quindi dovremmo abituarci ad un modo nuovo di goderci gli spettacoli, il film, una performance, appunto, artistica del nostro artista preferito. Ma cosa ne pensano i diretti interessati e soprattutto che cosa hanno fatto in questi mesi? Come si sono guadagnati da vivere? Perché parliamoci chiaro, per molte categorie c'è stato anche il problema di essere rimasti fuori da tutta la gamma degli ammortizzatori sociali che il governo ha messo in campo in questo periodo. Sono stati poderosi dal punto di vista della dimensione finanziaria, eppure qualche categoria è rimasta fuori. E poi ricordiamoci sempre che quando parliamo di spettacolo, cinema e teatro non parliamo semplicemente e solo di attori, di chi è in prima linea ed è noto, è famoso ed è, sono le persone che noi conosciamo, gli artisti che noi conosciamo. C'è tutta una ampissima gamma, appunto, di lavoratori dietro le quinte che mandano avanti questi settori e dei quali parliamo molto poco, ma che sono naturalmente anche in grande difficoltà: elettricisti, macchinisti, tutti gli addetti alla produzione della macchina organizzativa. Come ha gestito questo periodo drammatico, difficilissimo? E quindi vi chiedo, lavorate nel settore dello spettacolo, del teatro, della musica, raccontateci qual è l'impatto che l'emergenza coronavirus sta avendo sulla vostra condizione, come prevedete che cambierà anche il lavoro, se ci sarà, nei prossimi mesi, quali sono le nuove strade che state percorrendo, magari qualcuno avrà anche deciso di cambiare totalmente settore. Aspettiamo le vostre testimonianze, anzi le aspetto, perché stamattina vi sarete accorti che Mauro mi ha lasciato da sola. 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta, scrivetemi anche se volete. Fate fatemi compagnia al 349-238-6666. Riceviamo i vostri sms, riceviamo anche i vostri messaggi su WhatsApp. So che vi piace molto continuare a mandarcene di natura vocale, li riceviamo anche questa mattina molto volentieri. Carmelo Lauricella in regia, Guido Scotti assistente di prossimità, assistente remoto come sempre Marco Lombardo. Noi siamo pronti per partire con il nostro giornale radio del risparmio. Meazza corro sciani la mattina, in sordi sola meglio medicina. Carenze informative sui rimborsi, mancato adeguamento del pedaggio su alcuni tratti della rete autostradale. Su queste due pratiche, con l'ipotesi che siano scorrette, sta indagando l'antitrust da qualche giorno e ha aperto un'istruttoria nei confronti di Autostrade per l'Italia. Ma ci mancava solo questa, ad Autostrade per l'Italia, la società appunto concessionaria della gestione e manutenzione degli oltre 3.000 chilometri di rete autostradale gestita in Italia, come sapete, già sotto scacco per la questione del Ponte Morandi. Due le pratiche che vanno accertate secondo l'autorità garante del mercato. La prima riguarda l'autostrada A16 Napoli-Canosa e consiste, secondo l'autorità, nel mancato adeguamento del pedaggio autostradale a fronte della riduzione delle corsie di marcia, nonché di specifiche limitazioni ad 80 km orari della velocità massima consentita nei due sensi di marcia per lunghi tratti del percorso, con conseguente rilevante aumento dei tempi di percorrenza. La seconda pratica investe invece tutte le tratte della rete autostradale e riguarda le modalità informative sulle procedure di rimborso che si possono attivare se il servizio peggiora per la riduzione delle corsie di marcia o per altre limitazioni alla viabilità, come la riduzione della carreggiata, della velocità massima, la chiusura di alcune uscite. Il procedimento istruttorio viene accolto, lo ha fatto sapere con favore dall'Unione Nazionale Consumatori, e c'è stato questo commento del presidente dell'associazione Massimiliano Dona, che dice: di tutta evidenza che chi va in autostrada paga il pedaggio sulla base del presupposto di poter raggiungere una località in breve tempo e ad alta velocità. Se resta imbottigliato perennemente ad 80 km orari per lavori in corso, il pedaggio è giusto che sia adeguato in modo corrispondente. Insomma, vedremo se l'antitrust riuscirà a raggiungere questo risultato. Altri risultati raggiunti, o quantomeno altre segnalazioni da altre associazioni dei consumatori. Ne abbiamo un paio di Adiconsum. Allora, intanto la prima segnalazione di questa grande organizzazione dei consumatori riguarda il fatto che il sito Consap non sia accessibile da giorni. Parliamo spesso di questo sito, di questo organismo che risponde direttamente al Ministero dell'Economia ed è un sito che gestisce indennizzi a vittime di situazioni di vario tipo. Ne abbiamo parlato molto perché, per esempio, si può formulare sul sito della Consap la domanda per chiedere l'adesione alla moratoria dei mutui attraverso il fondo Gasparrini, ma il sito Consap si può utilizzare anche per chiedere l'indennizzo a chi ha diritto di aderire al cosiddetto FIR, il fondo indennizzo appunto risparmiatori, e quindi parliamo delle vittime dei crack bancari. Da giorni il sito è in tilt, un altro data breach come quello dell'INPS del 1 aprile, speriamo di no, però insomma sembrerebbe impossibile in questi giorni per i risparmiatori accedervi, e siccome c'è tempo fino al 18 giugno, cioè fino a domani, per presentare la domanda al fondo indennizzo risparmiatori per chiedere il ristoro spettante, questo è un bel problema. Non bastava, dice Adiconsum, il lockdown e l'inevitabile rallentamento di tutte le procedure, ci mancava anche l'impossibilità o comunque le difficoltà di accesso al portale della Consap per i risparmiatori che devono presentare la domanda di ristoro entro domani. Sono circa 300.000 persone, appunto le persone interessate ad ottenere questa nuova tranche di rimborso, e quindi insomma questo è un bel problema. Di conseguenza forse si renderebbe anche necessaria un'ulteriore proroga dei termini, come auspicato da molte associazioni dei consumatori. Un'altra iniziativa che voglio segnalarvi, sempre per quello che riguarda appunto Adiconsum, sta seguendo anche questa associazione dei consumatori molto da vicino la vicenda Dentix, che è la catena low cost di cure dentali. Ma non si è ancora ben capito se sia vero, se l'azienda abbia presentato istanza di fallimento. Di fatto ci sono molte persone, molti italiani, che hanno fruito dei servizi di questa catena, hanno pagato anche in anticipo molte cure che non sono state fornite. qualcuno si è anche indebitato facendo dei prestiti, perché questa catena appunto consentiva di erogare le sue cure anche consentendo alle persone di pagare a rate il trattamento, ma a quanto pare appunto c'è questa incertezza sulla presentazione o meno dell'istanza di fallimento, e quindi non si è ancora ben capito quale sia in questo momento la condizione di questa catena. Di fatto, se avesse presentato istanza di fallimento, ma non ne abbiamo ancora la certezza, di Consum sta indagando, con l'atto diventerebbe molto più complicato appunto per i consumatori recuperare quanto versato, e quindi diventa assolutamente necessario appunto ricevere un'assistenza adeguata. Abbiamo per la verità una rettifica di Adiconsum arrivata proprio qualche istante fa, e pare che Dentix non abbia presentato istanza di fallimento, e quindi insomma ulteriore confusione, ma di fatto fallimento o no, le persone interessate non ricevono le cure, hanno pagato, stanno rimborsando questi prestiti e quindi sono in balia di questa situazione sulla quale andrebbe fatto chiarimento quanto prima. Un'altra notizia che voglio raccontarvi arriva questa mattina invece dall'attività della Borsa Italiana, che ha siglato un accordo con la Polizia di Stato per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto i sistemi e servizi informativi di particolare rilievo per il Paese. C'è una nota che è stata diramata proprio in mattinata, dove viene spiegato che questa convenzione, firmata dal capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli, e dall'amministratore delegato di Borsa Italiana Raffaele Gerusalmi, rientra nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione alla criminalità informatica. E quindi anche Borsa Italiana insomma si attiva direttamente per cercare di proteggere tutti quei risparmiatori, anche piccoli investitori che utilizzano la piattaforma di Borsa Italiana per fare attività di compravendita di azioni e obbligazioni. E quindi insomma c'è questa azione congiunta Borsa Italiana e Polizia di Stato. Direi che per il giornale radio oggi è tutto. Ah, vedo già con piacere che ci stanno scrivendo degli ascoltatori. Luca, cantante lirico, ve lo leggo subito. Contratti italiani ed esteri cancellati per ora fino ad ottobre 2020. A febbraio 2020 ho ricevuto il pagamento da un teatro italiano per una produzione di maggio 2018. 20 mesi di ritardo senza nessun indennizzo, e quello era ancora un momento di normalità. Figuriamoci che cosa potrà succedere da qui in avanti per tutti i ottimi, bravissimi professionisti del settore. Abbiamo adesso lo sportello del nostro programma e poi partiamo con il tema del lavoro. Dillo a due di denari. Ma insomma, volevo dire questo: se anche una compagnia aerea vi dà un voucher, accettatelo. Accidenti, sono le compagnie aeree che stanno fallendo, cosa volete? Ancora cavagli il sangue? E non ho capito io, Lorenzo. Allora, devo dire che questo ascoltatore mi colpisce molto, perché molto spesso non c'è questo grande spirito di comprensione per le difficoltà che il mondo economico produttivo tutto ha vissuto in questo periodo di lockdown. Tutti abbiamo richiesto tutto, volendolo subito, a partire dalle indennità chiaramente per chi è rimasto senza lavoro, ma banalmente io ho avuto tante discussioni per esempio con persone che volevano immediatamente sospendere l'abbonamento della palestra, l'RC auto, tengo la macchina ferma in garage o nel parcheggio davanti casa per 2 settimane, non capisco perché l'assicurazione devo continuare a pagarla in questo periodo, e via che le compagnie si sono attivate con tante iniziative di sospensione automatica o comunque di riconoscimento di un bonus da utilizzare alla prossima sottoscrizione appunto della successiva assicurazione, della successiva appunto del rinnovo della polizza. E quindi mi colpisce che questo ascoltatore lo stesso sia un po' della nostra stessa idea, di avere un po' di pazienza. Io so che molte compagnie aeree si sono attivate per rimborsare esattamente secondo quanto proponevano le persone che non hanno potuto fruire dei voli e non hanno potuto viaggiare, hanno dovuto cancellare appunto il viaggio desiderato o anche il viaggio di lavoro, perché poi si è trattato anche di molta attività professionale che non è stato più possibile esercitare, e altri invece dicono no, a me non interessa ricevere il voucher come previsto, voglio rimborsare, cioè, poca pazienza. E quindi noi siamo contenti anche di questo ascoltatore che come dire abbia impostato il suo ragionamento all'insegna del buonsenso, che però insomma non è stato per tutti. Questo non significa che dobbiamo rinunciare a soldi spesi se ce li riconoscono e se ce li ridanno indietro, ma avere a volte anche delle pretese molto, molto, molto esagerate e da dover essere accontentate seduta stante subito è altrettanto, secondo noi, fuori luogo in un momento drammatico come questo. Detto questo, prima di parlare però dei lavoratori del cinema, dello spettacolo, della musica, eccetera, abbiamo un altro tema che riguarda il lavoro. Abbiamo chiamato stamattina un giuslavorista. Sentite. Dov'è il nuovo lavoro? In questo periodo, insomma, tante persone hanno continuato a lavorare, tante invece hanno ridotto drasticamente l'orario di lavoro, lockdown per molte aziende, quindi la gamma degli ammortizzatori sociali che si è messa in moto è stata veramente enorme, di una dimensione ampissima, e però non è ancora sufficiente, perché il governo, come sapete, 2 giorni fa, il 15 giugno, ha approvato un nuovo decreto per garantire un altro mese di integrazione salariare per la Covid-19 e quindi altre settimane di cassa integrazione, altre 4 settimane. Cerchiamo di capire qualcosa di più di questo provvedimento di 2 giorni fa con uno dei nostri esperti mondiali del settore, del mondo del lavoro, appunto avvocato del lavoro, giuslavorista, esperto per il Sole 24 Ore, avvocato Giampiero Falasca, studio di Elea Piper. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Deborah, grazie del mondiale. Grazie. Allora, la sentiamo un pochino tamponata, magari si può sistemare un po' meglio la sua simpatica boccuccia davanti appunto al telefono. Non allora, hai bravissima. Adesso la sentiamo molto meglio. Allora, okay. Ci dice che cosa prevede questo provvedimento di 2 giorni fa. Già erano state molte le settimane di cassa integrazione, con tutte le polemiche peraltro legate al tardivo pagamento da parte dell'INPS delle settimane appunto di cassa integrazione che erano state riconosciute ai lavoratori a casa a causa del lockdown. Generalmente la cassa integrazione arriva sempre abbastanza tardi, in questo periodo sarebbe stato il caso di velocizzare le operazioni, ma da quello che ho capito solo d'ora in avanti sarà possibile avere l'assegno mensile in tempi ragionevoli. Qual è stata la portata dell'intervento del governo di 2 giorni fa, Falasca? Sì, allora precisiamo che un decreto appena sfornato, ancora croccante, quindi non possiamo dire che cosa tutti gli effetti. Il significato principale del decreto è quello di allungare di 4 settimane, come ha detto lei, la cassa integrazione, e quindi si pone fine a un problema enorme, perché gli ammortizzatori sociali Covid decorrevano dal 23 febbraio. Per le aziende che avevano iniziato a utilizzarli da quel giorno, sostanzialmente i primi di giugno era finita la cassa. Finita la cassa, le aziende non potevano andare avanti magari impiegando i lavoratori, non possono tuttora licenziare perché fino al 17 esatto, di agosto c'è anche il divieto, il divieto di licenziamento, e quindi c'è questo buco che è una terra di nessuno, che bisogna capire come riempire. Attenzione però, perché queste 4 settimane sono una misura utile, ma non basta, perché nell'esempio che vi ho fatto, un'azienda adesso sfanga tutto giugno, ma i primi di luglio si ritrova nella stessa situazione, ha 1,5 mesi di vuoto. Ora è brutto dirlo e so che mi attirerò qualche critica, ma bisogna evitare di prolungare ancora il divieto di licenziamento, perché è un palliativo che va a danno persino dei lavoratori, perché un'azienda che non ha lavoro, se licenzia, mette almeno i dipendenti in nappi e prendono 2 anni di indennità di disoccupazione. Se continuiamo con questo gioco di allungare la cassa, sì, di decretare d'urgenza mese per mese solo per allungare l'ammortizzatore sociale. I fallimenti, Deborah, tra l'altro una cosa tecnica, non l'ha presentata la catena di prima, perché fino al 1° luglio non si possono presentare le istanze di fallimento, secondo me solo quello è il motivo, sentivo prima la cosa di Adiconsum, ma diciamo i fallimenti… Ah sì, della catena di Dentix, potrebbe esserci questo motivo, quindi non è perché sono bravi, ma perché banalmente la legge non consente. È improcedibile fino al 1° luglio, ma il rischio qual è? Che noi questi mesi iniziamo a vedere aziende che spariscono semplicemente perché non possono proseguire con l'ammortizzatore, non possono licenziare, chiudono i battenti e nessuno le vede più. Io capisco l'esigenza di bloccare per un po' la perdita dei posti di lavoro, ma adesso sta diventando un problema questo divieto di licenziamento. Quindi paradossalmente voi esperti del settore suggerireste di rimuovere il divieto di licenziamento per consentire di avere un ammortizzatore sociale serio per 2 anni che garantisce al lavoratore di potersi eventualmente, se ci saranno poi anche queste condizioni, di rimettersi nel mercato del lavoro e magari cercare delle alternative se l'azienda non ce la fa chiaramente a ripartire. Quindi un business morto è meglio ripartire, cioè l'ammortizzatore c'è, si chiama Nappi, dura 2 anni, è serio e consente anche le persone, perché rischiamo adesso di creare milioni di lavoratori assistiti. Ora, per ora è giusto, non voglio essere frainteso, era giusto lavorare sulla cassa integrazione, ma adesso non possiamo diventare un paese di cassa integrati, certo. Le aziende che non ce la fanno, Avvocato, allora noi siamo stati ben lieti di raccogliere la sua posizione, il suo suggerimento al governo. Rimaniamo per un attimo intanto a quello che abbiamo fino a questo momento, a questa proroga appunto definita 2 giorni fa. Leggo che il provvedimento avrebbe anche disposto per i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto, o comunque errori di altro tipo, di presentare una domanda appunto con delle modalità corrette. Che cosa significa questo intervento? Che tipo di errori sono circolati appunto fra i datori di lavoro nella compilazione appunto della domanda per richiedere gli ammortizzatori sociali per i propri lavoratori? Ma errori di tutti i tipi, magari l'IBAN sbagliato, il nome sbagliato, oppure magari un'azienda pensava di essere titolare del FIS e invece ha chiesto la cassa in deroga e così via. Questa è una norma opportuna, direi doverosa, con la quale si precisa che si può richiedere la domanda. Sulle anticipazioni del trattamento, che era quello che diceva prima, attenzione, perché il problema è lungi dall'essere risolto, perché comunque è ancora molto farraginosa la procedura che porta a velocizzare i pagamenti. Quindi vediamolo alla fine se veramente ci sarà risolto il problema dell'anticipazione della cassa. Per ora sappiamo che c'è ancora migliaia di domande di cassa in deroga non sono state pagate, magari per questi errori. Tra l'altro il decreto del governo dice anche un'altra cosa importante, cioè si dice se il datore di lavoro non adempie i suoi obblighi in materia di cassa, risponde lui del pagamento nei confronti del lavoratore. Quindi da un lato si dice ti faccio correggere errori e omissioni, ma dall'altro si dice attenzione, se tu non è che hai fatto un errore, ma sei inadempiente ai tuoi obblighi, non mandi la modulistica necessaria alla cassa integrazione, e questo va a tuo carico e paghi tu l'integrazione salariale. E devo dire che anche questo mi sembra giusto e ragionevole. Certo. Un'ultima domanda, avvocato Falasca, se non ricordo male, ma mi pare che questo tema sia un pochino scomparso poi dalle cronache dei giornali, per tutte quelle, non è poi colpa delle aziende, l'INPS che eroga tardi, c'è stato anche un frangente in cui il governo ha consentito alle banche di anticipare la cassa integrazione, proprio riconoscendo questo tema del ritardo. Ha funzionato questo ponte bancario? È stato utilizzato in qualche maniera? Ecco, appunto, mi pare che sia proprio... Noi siamo la Repubblica fondata sul modulo invece che sul lavoro. Quindi nella Repubblica fondata sul modulo una buona idea viene, come un po' il decreto liquidità, viene affossata da modulistiche lunari e quindi anzi ha creato paradossalmente un problema, perché tutti avevano un po' l'illusione di poter accedere alla procedura bancaria, poi la procedura bancaria si è rivelata molto onerosa, molto complessa, con dei passaggi francamente incomprensibili e inaccettabili, e quindi non è stata la soluzione che invece poteva essere, perché era una buona idea. Insomma, però qua è stato un periodo talmente complicato che avere anche la lucidità di individuare immediatamente la validità di provvedimenti peraltro varati e capire quale fosse meglio rispetto ad un altro, abbiamo compreso che non è stato proprio, come dire, per tutti un atteggiamento di lucidità per tutti. Avvocato Falasca, grazie. So che voi siete generalmente anche molto ascoltati a livello di palazzo con i vostri suggerimenti, e chissà se questa cosa adesso ci attireremo appunto delle inimicizie probabilmente, ma spero che si sia ben compreso il messaggio che lei ha voluto far passare sul tema della rimozione del divieto di licenziamento, semplicemente perché consente di avere un ammortizzatore sociale, la NASPI, che dura 2 anni e sicuramente mette, piuttosto che questa condizione di precarietà che va avanti di settimana in settimana, mette forse in una condizione emotiva il lavoratore in maniera diversa appunto rispetto alla situazione di questa fase. Grazie avvocato Falasca, presto. Buongiorno. La borsa, e poi torno con il mondo dello spettacolo. Lasciamo perdere, va, che siete entrati in un campo minato che è meglio evitare. Fineco, è tempo di investire con noi. vi presenta. Due di denari. Deborah, t'è data breccia, ma t'hai la sì. Perché non dirlo correttamente? Data breach, breach of the regulations, infringement of the regulations. Sto sentendo adesso, no, che diceva per ovviamente le domande con l'IBAN sbagliato, eccetera. Ma io vi chiedo, ma possibile che basta fare, quando tu metti l'IBAN, mettere un pulsantino, come quando si usa farlo con l'internet banking, gli metti un pulsantino che verifica l'IBAN. L'IBAN è errato, gli dirà errato, l'IBAN giusto, basta. A prova di errore, è possibile, non è possibile fare una cosa così semplice. Evidentemente non è possibile. Allora, per quello che riguarda invece il data breach, o come volete pronunciarlo, farò qualche corso di dizione, magari stamattina mi faccio aiutare da un amico che è Lorenzo degli Innocenti, un attore. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, ciao Deborah. Sei disposto a farmi un paio di lezioni qua in diretta seduta stante? Sì, certo, vengo subito, guarda, prendo il treno e arrivo. Allora, Lorenzo degli Innocenti, un grandissimo attore italiano, sta a Firenze, alla scuola di Arnoldo Foà. Io non faccio tutto il tuo biglietto da visita, bravo. Lorenzo, perché è impressionante, perché insomma hai partecipato a tante serie televisive, sei un Davide di Donatello, un nastro d'argento e chi più ne ha più ne metta, ma soprattutto oltre a fare l'attore sei anche un insegnante, sei un conduttore di laboratorio di racconti, insegni teatro in carcere, anche questa è una cosa che ci piace molto segnalare della tua attività, grande amico di Alessandro Benvenuti, e la finisco qua. E insomma, però anche per te, nonostante tutto questo gran biglietto da visita, immaginiamo che gli ultimi 3 mesi di attività professionale abbiano dovuto essere ripensati. Ci racconti un po' che cosa è successo per quello che riguarda il tuo lavoro dall'inizio di marzo in avanti? Quanti spettacoli avevi in programma? Peraltro persino una tournée a Milano, se non mi ricordo male. Tutto cancellato, e allora? Allora, intanto fammi dire una cosa, io avevo imparato a memoria una canzone di Chapter 11 stamani, ma sei da sola, quindi niente, non la canto. Niente, va tutto storto, siamo proprio in piena pandemia qua. Tienila però lì calda, perché te la faccio utilizzare in un'altra puntata. Va bene, perfetto. Senti, sì, dovevamo essere a Milano, una quindicina di repliche, tra l'altro c'erano già i biglietti pronti per te e per Mauro, erano già messi da parte, e quindi niente, purtroppo... Tutto cancellato. Sì, purtroppo quelle e altre date sono, speriamo che siano rimandate. Certo. Diciamo che questo periodo ha tirato fuori il meglio e il peggio della categoria. Abbiamo capito molte delle fragilità, delle debolezze di cui soffriamo noi attori, diciamo degli artisti in generale, no? Prima fra tutte il non appartenere a una vera categoria, perché come ben sai, insomma, se ne è parlato molto, hanno ridotto i giorni di lavoro per l'accesso ai contributi, insomma agli ammortizzatori, da 30 a 7. E chiaramente io non voglio giudicare, però si sono alzati molti dei professionisti, hanno detto beh, insomma, però se uno lavora se ha 7 giorni di contributi all'anno, gli altri 357 giorni che ha fatto, esatto. Allora è certo. Uno che ha fatto risolto lavoro. Un problema, se ne apre subito un altro, ovvio, sì. Come sempre, però è anche una obiezione forse non del tutto irragionevole. Assolutamente, no, ma infatti voglio dire, fare la comparsa all'opera 7 giorni non ci vuole niente, quindi avere 7 giorni di contributo, questo vuol dire che però insomma chi fa questo lavoro, chi ha 100 giornate l'anno, si è un po' risentito. Allo stesso modo, quando si cercano di fare delle un albo di categoria, si alzano in piedi quelli che giustamente hanno fatto le accademie, quelle riconosciute, e dicono beh sì, però noi siamo qualcosa in più rispetto a... Quindi insomma capirai che è veramente difficile insomma ingabbiare gli artisti in una categoria, però è anche necessario, insomma. Assolutamente. Senti, che tipo, come hai riconvertito il tuo lavoro? Tu non hai più potuto calcare il palcoscenico di un teatro, però facevi tante altre cose, in qualche maniera ti sei tenuto però impegnato dal punto di vista professionale, intendo impegnato per ottenere uno stipendio mensile. Come no? Come no? Allora, dunque, prima, la prima cosa che abbiamo fatto io e due amici e colleghi che facevano lo spettacolo con me, che è saltato, che sono Roberto Andrioli e Fabrizio Checcacci, abbiamo creato una pagina che si chiama Il Teatro Non Si Ferma e abbiamo chiesto a tanti amici, colleghi, attori, insomma voglio ricordare Peppe Servillo, Pamela Villoresi, Ottavia Piccolo che ha benedetto Operazione, insomma tanti amici che hanno voluto contribuire regalando 5 minuti al pubblico. Noi volevamo lavorare su due cose, il rito e il dono. Il rito era quello che ogni sera alle 9 andava in onda uno o due contributi, come se qualcuno si sedesse a teatro e tutte le sere sapeva che c'era qualcosa. Erano piccoli doni che gli artisti facevano e questo è stato un... è stata una parte del lavoro, però è la parte non retribuita, diciamo la parte artistica. Mm-hmm. Poi sai, ci sono, io faccio gli audiolibri, tu lo sai perché poi certo, io sono stato ospite a Radio 24, mm-hmm. insomma, con dei racconti un paio d'anni fa, quindi quello è un'attività che non è del tutto morta. Il problema grande adesso è la ripartenza, ovviamente, perché lo stare fermi è stata una parte del problema. Come dire, rimanere certo. in sospensione e adesso la ripartenza con delle rappresentazioni distanziate, quindi introiti economici anche per tutti gli organizzatori e le produzioni molto differenti rispetto al passato e di conseguenza una ricaduta anche per quello che riguarda voi. Lorenzo, io ho altri ospiti, mi ha fatto veramente piacere sentirti, in bocca al lupo per tutto, per un tutto grande abbraccio e speriamo soprattutto di poterti vedere naturalmente live per voi. Perfetto, sentiamo che cosa ci dice. Ciao Lorenzo, Vincenzo Spera, presidente di Assomusica, associazione di categoria di promoter e impresari, perché loro, ecco, insomma, tutta questa dalla testimonianza di uno andiamo invece alla raccolta di testimonianza di tanti professionisti che lavorano in questo settore. Abbiamo sentito un attore, Vincenzo, ma qua bisogna anche richiamare l'attenzione sull'attività di elettricisti, macchinisti e tutti i professionisti che consentono l'allestimento degli spettacoli. Abbiamo detto tante volte, gli attori ci mettono la faccia per richiamare l'attenzione su certi momenti complicati e poi gli altri appunto non possono farlo, ma queste persone sono rimaste senza stipendio, senza poter fare alcunché. E adesso si riparte con tutta la riorganizzazione che sarà necessario di spiegare per consentirvi di farci vedere le cose belle. Vincenzo, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, intanto ti do un minuto perché poi devo andare al traffico, però un primo messaggio lo possiamo regalare ai nostri ascoltatori. Che cosa sta succedendo in questo momento? Oggi è il 17 giugno. Purtroppo avete messo il dito sulla piaga, l'individualismo. Ecco, questo è un po' il dramma del settore, ma che discende in qualche modo dall'essere dipendenti tra virgolette dell'artista. Quindi tutti i lavoratori, tutti coloro che si occupano di spettacolo, in qualche modo hanno nel DNA questa caratteristica che è il dramma attuale, ma che comunque se non c'è un cambiamento radicale che porti a sinergie e a socializzazione tra lavoratori, artisti e il mondo intero dello spettacolo, visto che noi creiamo socializzazione, ma dovremmo averla tra di noi per poter essere forti e far sì che la filiera di lavoratori infiniti che ha già descritto lei, ma che comunque sono non riconosciuti oltretutto nelle categorie legislative, rischia di perdersi un po' per strada. Ecco, su questo casomai nel prossimo intervento. Perfetto, parliamo peraltro sicuramente per quello che riguarda, diciamo, il mondo musica, parliamo di 200.000 lavoratori, forse saranno anche di più, che non abbiamo ben capito peraltro quali misure di sostegno abbiano avuto in questo periodo appunto di emergenza. Il traffico tra poco. Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com, ERP e Digitech per aziende sfidanti. Due di denari. No, cara Deborah, è vero che il periodo è quello che è, quindi ci sono stati problemi, ma ci sono le task force che dovrebbero risolvere questi problemi, se no che task force sono? Pagate con i nostri soldi, ovviamente. Vabbè, la task force in questi giorni sono un po' tutti riuniti a questi stati generali. Ora Vincenzo Sperra, ritorno da lei, presidente di Assomusica, per chiederle: facciamo un esempio di tutte le categorie coinvolte nel mondo, tra virgolette appunto molto ampio, della musica, e che in questo periodo sono categorie appunto rimaste a casa. Che misure di sostegno economico hanno avuto? Come ripartiranno? Come ripartirete soprattutto? Perché si parla tanto, per esempio, di eventi web, di drive-in, di nuove forme di intrattenimento. Insomma, che cosa può essere sostenibile e accettabile per voi? Intanto è insostituibile l'evento live, così come l'abbiamo sempre vissuto. Queste nuove forme tipo drive-in mi sembra che soprattutto in Italia non abbiano avuto un grande riscontro. Si sta ora iniziando a programmare degli eventi con le misure attualmente in qualche modo prestabilite negli ultimi DPCM, però mi sento di segnalare che sono misure non corrispondenti alla realtà, perché se parliamo di strutture teatrali all'aperto, con quindi una partecipazione statica del pubblico e non dinamica come avviene in altre realtà, dalla piazza agli incontri al bar eccetera, credo che come al solito ci stanno penalizzando. Mm-hmm. Questo che vuol dire? Che con grandi sforzi stiamo facendo di tutto per mantenere in piedi una filiera variegata e, come dicevamo anche prima, molto individualista, però si corre il rischio di perdere per strada delle figure molto importanti che già oggi sono ricercatissime. Ma per esempio? Ci sono i riggers, per esempio, sono delle persone fondamentali per la costruzione di uno spettacolo, uh-huh, per le loro capacità di arrampicarsi e mettere in sicurezza le strutture. Ci sono, come dire, light design piuttosto che ingegneri del suono che devono individuare altre strade per avere entrate. Quindi c'è tutta una serie di figure, certo, che anche alta professionalità, insomma, che rischia di andare persa, ecco. Ma quindi parlo anche dell'autore piuttosto che del compositore, che ora mi piacerebbe, ecco, uno delle cose che mi chiedo, la vena creativa come si sta trasformando in questo periodo all'interno dell'animo di chi, mm-hmm, crea per primo il sì, primo veramente tassello che poi diventa il motore dell'intera catena. Questa, no? Necessità di ripensarvi completamente forse è proprio una delle tegole più importanti che si è abbattuta su un settore che ne sta pagando forse più di tutti gli altri, appunto, come conseguenza. Io sì, lo dico da tempo, anche a livello di meeting europei, e sono convinto di una cosa, che di fronte a l'evoluzione così di monopoli internazionali, credo che l'Europa, l'Italia, l'unica arma che ha è la cultura e con essa la musica, e ritengo che la cultura sia l'infrastruttura più importante che nessuno ci potrebbe comprare. Quindi se la sappiamo trattare adeguatamente, credo che avremo fatto un gran bel lavoro e avremo allargato le possibilità di sostenere chi in questo momento si trova in difficoltà. Spera, prima ho un'altra ospite, peraltro le dovrò dedicare solo pochissimo, ma ce la farò. La saluto intanto, Alessandra De Luca, doppiatrice, speaker di Radio 24. La bellezza delle nostre schede in onda la si deve quasi interamente, un pochino ci mettiamo noi di contenuto, poi Alessandra insieme a tutti i suoi colleghi appunto rendono le nostre schede molto speciali. Alessandra, ben trovata, grazie. Ciao Deborah. Un'ultima domanda vorrei fare a Spera. Le posso chiedere che cosa pensa del tema del voucher per gli spettacoli annullati, che ha fatto indispettire persino Paul McCartney? La domanda è a me? Sì, aspetta, sì. Beh, questo è un altro secondi. Dei temi, che è un po' il tema che si lega all'intero turismo. Senza una misura del genere si rischia che molte società portino i libri in tribunale. E questo vuol dire fare un danno notevole all'intero sistema. Dico, la stessa misura adottata in Italia esiste in Germania, ma in Germania nessuno ha fatto grosse polemiche. Nessuno ha fatto un plissé. Grazie a Vincenzo Spera, presidente di Assomusica, per essere stato con noi. Purtroppo, Alessandra, ti posso dare solo 45 secondi. Che cosa è significato per te questo lockdown? Beh, allora cercherò di sintetizzare come sì, per tutti quelli che fanno il mio mestiere, un mestiere artistico, è stato un grande problema. Nel mio piccolo, il mio fatturato, chiamiamolo così, si è ridotto dell'80%. Tu puoi capire che cosa vuol dire. Azzerato praticamente. Già dai primi di marzo. Io sono una delle fortunate perché, per esempio, faccio la speaker per Radio 24, che per fortuna mi fa lavorare da casa. Ma tutti gli altri lavori si sono bloccati, anch'io lavoro con gli audiolibri, ma è stato un problema, la maggior parte degli studi di produzione si sono bloccati, stanno ricominciando lentamente, siamo in tanti, in più ci sono tutti gli attori di teatro che non hanno fatto teatro, probabilmente non lo faranno, allora si buttano in quello che faccio io, insomma. Una confusione nella confusione, certo. Tenta di riconvertirsi mantenendosi nell'ambiente, cercando di fare dell'altro, ma senza qualità e caratteristiche. Quindi insomma il futuro è molto incerto per tutti noi, puoi immaginare che cosa significa entrare in uno studio di produzione oggi. Assolutamente, con Alessandra, mille regole da seguire. Ti sento pure che ti trema la voce, e questo dimostra quanto con quanta passione questo lavoro si faccia e quanta attenzione dobbiamo dedicare anche a questi professionisti, e noi con Mauro ci torneremo. Purtroppo è tutto, io ritorno anche stasera a Focus Economia, grazie a tutti, buona giornata.